Radio 24 Reportage. Nel nome del padre di Roberta Pellegatta. La separazione, io alle volte penso, è un incubo. Dici, ma perché mi trovo in questa situazione? È un incubo perché ti cadono addosso tantissime di quelle problematiche che prima... È come andare in galera. Niente più libertà di vivere gli affetti, di seguire da vicino i figli, di condurre una vita dignitosa. E questa è la condizione di molti papà separati nell'Italia della crisi e delle metropoli dagli affitti impossibili. Li chiamano i nuovi poveri. Hanno un lavoro regolare, uno stipendio normale, ma una vita da indigenti. Dopo la separazione la casa va alla moglie e molti, pagato il mutuo e l'assegno per i figli, non hanno più risorse. Mi hanno buttato fuori di casa. Oltre la separazione abitavo con mia madre prima. Poi, morta mia madre 3 anni fa, in un attimo mi hanno buttato fuori dall'appartamento dove abitava mia mamma. Ho fatto 2 mesi a dormire in macchina. Chi non riesce a tornare nella famiglia d'origine si arrangia da qualche amico in piccoli monolocali, nei dormitori o appunto in automobile. Fanno la fila, spesso in giacca e cravatta, alla mensa dei poveri. Ed è proprio la Caritas, insieme all'Associazione dei Matrimonialisti Italiani, a lanciare l'allarme. I padri separati in difficoltà in Italia sono quasi 650.000, 90.000 nella sola provincia di Roma, 50.000 in quella di Milano. In entrambe le città è nata una casa dedicata a loro. Noi siamo andati a visitare quella di Milano. La casa dei papà separati è un progetto pilota realizzato in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali della provincia di Milano, naturalmente il Collegio dei Padri Oblati Missionari, che sono un ente ecclesiastico, e l'Associazione delle Famiglie Cristiane Separate Onlus. Siamo a Rò, cittadina alle porte di Milano, che si anima solo in occasione delle fiere, visto che ospita insieme a Pero il nuovo polo fieristico milanese. A Rò troviamo una sorta di oasi architettonica, è il 700° Collegio dei Padri Oblati Missionari. Qui, nel maggio di quest'anno, è stata inaugurata la Casa dei Papà Separati. 15 dei mini appartamenti destinati all'ospitalità sono a loro disposizione. L'architetto Enrico Croce è il responsabile dell'intera struttura. Immaginiamoci un grandissimo albergo dove però convivono, diciamo, residenti fissi e residenti temporanei. Sì. Questo non è un luogo dove il papà separato viene e dimora in eterno. Una soluzione assolutamente transitoria. 12 mesi? Sì, 8-14 mesi, direi 10 mesi lo standard corretto. E quali sono i requisiti che devono avere i papà separati per essere ospitati qui? C'è una limitazione rispetto al reddito che viene stabilito dall'ISE, quindi si sta parlando di padri che hanno reddito ISE non superiore ai 20.000 euro annui, che sono padri, quindi hanno dei figli, facenti parte ancora dello stato di famiglia, devono essere sposati. La discriminante non è il matrimonio civile piuttosto che il matrimonio religioso. Cos'è questa campanella? Questa campanella ci ricorda che fra esattamente 5 minuti iniziano i vespri. Quindi ci devono andare i papà separati, no? Non sono obbligati? No, non sono obbligati neanche a condividere la confessione religiosa. Noi qua l'unico punto che ci teniamo a precisare è che devono rispettare quelle che sono le abitudini di questa casa attraverso il regolamento. Quali sono queste regole? Orari di rientro, per esempio. La portineria chiude alle 1 di notte, orari d'uscita chiaramente, e poi considerare questo luogo come un laboratorio anche per loro, cioè loro in questi 12 mesi si esaminano, si affrontano, si ribaltano, si rovesciano. Certo, arrivano in un perfetto stato psicologico. E ben per quello che in questo momento si rovesciano come un calzino, no? In questo particolare frangente almeno non hanno il problema di un tetto, di un riscaldamento, del cibo. E in questi 10, 12, 14 mesi possono frequentare e possono ospitare i loro figli? È giusto sottolineare che questo progetto è nato principalmente per tutelare i bambini. Così, comunicando con l'assessorato delle politiche sociali della provincia di Milano, è sorta un po' questa idea di dare ospitalità ai papà separati, ma nel frattempo anche di dotare questa ospitalità di tutti quei comfort che servono per poter far trascorrere il tempo libero con i loro genitori. E mi racconta un po' questi papà che ha incontrato in questi mesi? Posso raccontarvi, sono le esperienze umane che viviamo con loro tutti i giorni perché coabitano con noi. Questi papà arrivano sicuramente disorientati, arrabbiati con le donne, delusi nei confronti delle, diciamo, istituzioni che tutto sommato non li tutelano nel loro progetto di genitorialità, poveri. Che stipendio medio hanno? Dai 900 ai 1250, 1300 euro al mese. Qui pagano un affitto? Corrispondono 200 euro mensili. Con questi 200 euro mensili noi garantiamo la sostituzione della biancheria settimanale, la pulizia della camera, le utenze, la connessione a internet. Insomma, cerchiamo di dare nell'economia generale di questa struttura un servizio più che dignitoso ad un costo contenuto. Nonostante questo, dei 15.000 appartamenti disponibili nella casa dei papà separati di Rò, solo 7 sono attualmente occupati. E molti papà non accettano di venire qua perché probabilmente ritengono di essere in una fase già posteriore rispetto alla fase che promuoviamo noi, cioè pensano di essere magari in una fase in cui ormai si sono sistemati, hanno già risolto il loro problema. Tra i 7 ospiti della casa dei papà separati di Ro c'è Marco, 50 anni, 2 figli di 15 e 20. È lui che abbiamo ascoltato in apertura. Una separazione è come una galera, perché ci sono delle lacerazioni, delle problematiche che una vita normale, una vita in famiglia, coi figli, con la tua stima, il tuo progetto di vita, prima non e tantissime persone che vivono una vita normale non le sanno queste cose, soltanto per il semplice fatto che non si sono separati. Lei si immaginava di poter vivere una situazione del genere? Assolutamente no, se io fossi stato consapevole, ma non tanto il fatto del tradimento, piuttosto che di ciò che si va incontro a livello affettivo, la perdita dei figli, della famiglia, ma mai niente e poi niente al mondo vale una separazione. È una lacerazione da un punto di vista sentimentale, psicologico, alla fine anche economico, questo è un fenomeno piuttosto recente. In questo periodo di crisi, visto che parliamo di economia, non è assolutamente il momento di separarsi. Cioè io faccio questa intervista perché voglio che gli altri assolutamente non pensino neanche di abbandonare la famiglia e i figli, perché adesso è diventare dei poveri, si diventa poveri automaticamente da tutti i punti di vista, affettivo, economico, ti distruggi come uomo. Ma è una cosa che si può decidere quando separarsi? Non bisogna separarsi. La famiglia è l'asse portante della vita, ma non lo dico perché adesso io mi sono separato, ho fatto è una mia considerazione, una mia consapevolezza del percorso della vita. La mia esperienza, ho capito, ho pensato, ho toccato con mano, il divorzio è negativo assolutamente quando si hanno dei figli. Adesso quali sono le sue prospettive? Guarda, quello che mi fa paura è che non ho prospettive di farmi una vita con un'altra persona. 50 anni non ha senso, non c'è storia, c'è un progetto limitato, perché ormai vivo la mia vita senza un progetto, senza un percorso chiaro. Lo troverà probabilmente in questi mesi? Ma questi mesi di permanenza in questa casa che mi sta ospitando qui mi servono un attimino per capire, per trovare una condizione economica e di stabilità per appunto... Spero di poter sviluppare un progetto. Che lavoro fa? Ma niente, io sono impiegato, una persona normalissima, uno dei tanti che oggi sbagliamo. La separazione è un ricordo più lontano per Maurizio, un altro degli ospiti della casa di Ro che ha accettato di parlare con noi. Anche lui ha un lavoro regolare, ma ci ha raccontato di aver dormito 2 mesi in macchina dopo aver perso l'alloggio in cui abitava con la madre. Purtroppo la vita è stata male all'inizio, sto aiutando ancora i figli e cerco di fare quel che posso, purtroppo. E lei qui da 4 mesi potrà rimanere per un periodo limitato, però? Fino a febbraio, se non sbaglio. E quali sono le prospettive per il futuro? Sto cercando, spero di trovare qualcosa. Se non avesse questa possibilità, l'alternativa quale sarebbe? L'auto? Purtroppo sì. Allora, quando si separò, la casa andò alla moglie con i figli? No, la villetta era sua già, quindi io non c'entravo niente, onestamente. Sono venuto fuori un problema col cognato e via, lei ha voluto ascoltare suo fratello, vabbè. A questo punto, senti, piantiamola qui, te sei a casa tua, visto che vado a casa mia. Dopo purtroppo è successo la disgrazia qua e mi sono trovato in strada, perché loro la portineria non la volevano più. Abbiamo fatto 30 anni di servizio in portineria. Qui ha incontrato altre persone nella sua situazione? Sì. No, ho conosciuto un po' di gente qua e poi esternamente anche per quello. Adesso vediamo, sto cercando. Secondo il centro studi dell'Associazione dei Matrimonialisti Italiani, entro 10 anni il numero dei separati in difficoltà in Italia è destinato a raddoppiare. Dalle aule dei tribunali escono famiglie distrutte, sotto profilo umano e sotto profilo economico. In questa vicenda suggeriamo sempre, nel caso in cui le coppie debbano trovarsi in una situazione di criticità, di farsi aiutare. Esistono centri di mediazione che poi sono di filosofia laica, di filosofia religiosa, e quello poi va un pochettino alla opinione e sensibilità delle coppie, ma di non restare mai soli. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.